Buongiorno Mattia. Sì, buongiorno a tutti. Allora, come nasce questo progetto e qual è stato il rapporto di Giulietta Masina con questo comune? Dove lei è nata, ma nel corso della sua vita quali sono stati i rapporti tra Giulietta e San Giorgio di Piano? Sì, Giulietta è nata a San Giorgio di Piano nella via principale, dove l'abbiamo già ricordata qualche anno fa, ponendo una lapide sotto il balcone nel quale, la quale lei si affacciava bambina sulla via principale del paese. È partita da San Giorgio ancora molto giovane, aveva pochi anni, quindi aveva vissuto qui praticamente la prima parte della sua infanzia, ma poi tornava spesso a San Giorgio. C'è anche un bel ricordo di Giulietta che racconta di quando si avvicinava a San Giorgio col treno proveniente da Bologna e riscopriva un po' i panorami e gli odori anche della nostra campagna. Aveva mantenuto qui ovviamente una prima parte della famiglia e poi comunque una serie di affetti, anche di amicizie. Ci sono famiglie sangiorgesi che hanno intrattenuto con lei una corrispondenza, una frequentazione, famiglie che tra l'altro hanno messo anche a disposizione il loro patrimonio sia fotografico che di ricordi, quindi un legame legato appunto al ricordo dell'infanzia, ma che comunque si è protratto per tantissimi anni, anche come appunto dimostrano le sue fotografie con personaggi di San Giorgio, amministratori, certo. Amici, anche semplicemente appunto familiari e conoscenti. Lunedì 22 febbraio alle 21 potremo assistere alla prima iniziativa di questo progetto, A Giulietta con affetto. E di che cosa si tratta? Quali sono le personalità che interverranno nel corso di questa serata? Sì, 22 alle 9, alle 21, con una modalità ovviamente non in presenza e quindi con un podcast che stiamo realizzando, che abbiamo realizzato. Inizieremo a ricordare Giulietta nel giorno appunto del suo compleanno, del suo 100° compleanno, perché era nata il 22 febbraio del 1921, quindi abbiamo voluto onorare questa ricorrenza, anche se ovviamente appunto non lo possiamo fare con un evento in presenza. E visto che è nata sulla spinta della nostra volontà come comune di ricordare Giulietta, è nata una collaborazione, questa volontà ha trovato l'appoggio sia di tutta l'Unione dei Comuni a cui partecipiamo, cioè l'Unione Ranovelliera, ma anche di altri enti come la città metropolitana, la regione e partner anche sicuramente di autorevoli nel campo della cinematografia come la Cineteca di Bologna o il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. E quindi appunto con questi partner abbiamo realizzato questo contributo, questo omaggio, e avremo anche qualche ospite illustre. Ci ha garantito un saluto Sergio Rubini, che da giovane attore è stato appunto un attore di Fellini e quindi ha conosciuto Fellini e Giulietta. Avremo un contributo di Mollica, che appunto era amico di Fellini, esatto, e tanto lo ha seguito durante la sua carriera. E poi avremo alcune relazioni di, per esempio, Angelucci, uno storico del cinema che è anche lui amico della famiglia di Giulietta e Federico. Avremo che ha da poco pubblicato un libro, mi pare. Libro che infatti doveva essere presentato in questi giorni, avremmo forse potuto farlo diciamo in contemporanea, ma proprio per le particolari situazioni ovviamente emergenziali questa presentazione è stata rinviata, e poi comunque la ospiteremo sicuramente anche a San Giorgio. Avremo un contributo di Sara Martin, che è docente di cinematografia all'Università di Parma, che ci parlerà con un taglio particolare di Giulietta. Poi avremo il contributo di Gianmario Anselmi, storico professore di lettere di Bologna e recentemente critico cinematografico su Rai 1. E poi appunto un intervento molto, molto importante di Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, che anche lui ci aiuterà appunto a ricordare la figura di Giulietta, la sua filmografia, la sua opera, contributi insomma di notevole spessore con cui vogliamo iniziare a ricordare la figura di Giulietta. Non solo lunedì 22 gennaio, però, perché questo progetto, queste iniziative andranno avanti nel corso di tutto l'anno con libri, mostre fotografiche, concerti, film e anche uno spettacolo teatrale realizzato per Giulietta Masina. Come possiamo rimanere aggiornati con tutti questi eventi e questo progetto di San Giorgio di Piano? Sì, gli eventi saranno veramente tanti, non siamo in questo momento nella condizione di dare le date precise, proprio perché appunto bisognerà capire con quali modalità si potranno fare l'iniziativa. Certo, confidiamo, come nell'estate scorsa, di poter approfittare dell'evento all'aperto, quindi avremo sicuramente una rassegna cinematografica, ma appunto anche teatro. Vogliamo anche realizzare eventi legati al mondo circense, vista, diciamo, il tema che percorre molta della filmografia di Bellini, anzi i ruoli di Giulietta. Quindi io vi invito a seguire la pagina Facebook del Comune, il sito del Comune, ma in questo senso abbiamo anche un fortissimo appoggio da parte della città metropolitana, oltre che dell'Unione Ranogaliera e della Cineteca, e quindi, diciamo, la comunicazione sarà veramente su più piattaforme e su più canali. Quindi sicuramente basterà cercare su Google Giulietta Masina San Giorgio di Piano e troverete un sacco di informazioni legate non solo a Giulietta e a San Giorgio, ma ovviamente anche agli eventi. Abbiamo già comunque in questi giorni, per chi volesse passare da San Giorgio, la prima iniziativa, diciamo così, di documentazione, una bella mostra realizzata dal Centro di Cinematografia Sperimentale di Roma, che ci ha messo a disposizione il Festival Cinematografico di Porretta, con delle bellissime immagini molto molto grandi, importanti di Giulietta tratte dai suoi film, che è esposta in questo momento, una mostra che si chiama Giulietta in vetrina, sotto i portici del nostro comune, nei negozi che si affacciano appunto nelle botteghe, anche storiche, che si affacciano su questo corso. Quindi è già una prima attività, visto che non è ancora possibile realizzare mostre, o comunque è ancora poco agevole realizzare mostre, abbiamo pensato di non mancare alla scadenza del 22, oltre che con l'iniziativa, anche con questa opportunità. Quindi vi invito a venirci a trovare fisicamente, ma anche virtualmente. Ricordiamo allora lunedì 22 febbraio alle 21 su Facebook e YouTube di tutti gli enti coinvolti, quindi dell'Unione dei suoi 8 comuni, possiamo assistere a Giulietta con affetto in occasione del centenario di Giulietta Masina. Grazie infinite, Mattia. Grazie a voi per l'attenzione.